140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Una puntata dedicata al cinema, questa di 140 caratteri. Mentre la Mostra del Cinema di Venezia ha i suoi primi giorni di proiezione, coi quali si apre di fatto la stagione cinematografica in Italia, torniamo a vivere con la nostra prima puntata di settembre l'ultimo dei grandi appuntamenti estivi, il Festival di Locarno. La Casorella, Locarno. La variabile umana di Bruno Oliviero da questo weekend in sala. Giuseppe Battiston e Silvio Orlando, investigatori in una Milano spettrale. È come un parente, no? Che parte per un qualche continente sperduto, poi dice: ma che fine ha fatto lo zio, il cugino tale? È qualche cosa con cui hai una forte relazione, che parte per un viaggio che si chiama montaggio. E poi ritorna e dice: cucù, eccomi qua, è passato un po' di tempo. No, adesso al di là delle... fin poi hai il ricordo di quello che hai girato, il ricordo di quello che hai letto, che quindi è la cosa che ti ha colpito e che ti ha spinto a farlo. E in più c'è... Il lavoro del montaggio, perché questa è la cosa più bella del cinema, che per quanti autori ci siano, per quanti attori ci siano, resterà sempre, sempre un'esperienza collettiva. E questo bisogna, con buona pace di tutti, che si rassegnino. Quindi nella suo aspetto artigianale ha la cosa più bella e più forte. E vedere il film, vedere il risultato di quel lavoro a mesi e mesi di distanza è divertente, è appagante. La coppia degli investigatori è un archetipo nel noir, sì. Il maestro e l'allievo, il giovane e l'uomo con più esperienza. Come avete voi cercato di riempire questo archetipo di un senso nuovo, di fare vostri questi personaggi? Ti ringrazio per archetipo, perché l'altro termine poteva essere anche cliché. No, effettivamente questa è una tipologia di coppia di poliziotti che da un lato ti spinge a pescare nei tuoi ricordi quello che hai visto, ed è molto divertente farlo. Dall'altro ti costringe all'osservazione del reale, quindi mi sono messo lì a vedere un pochino come si... a cercare quei gesti che possano raccontare il quotidiano di persone che fanno quel mestiere, no? E dopodiché noi siamo una coppia, c'è un poliziotto buono e c'è un poliziotto furbo, diciamolo così. Solo che quello buono non vuole più fare il poliziotto e quello furbo... non va tanto per il sottile, se deve raggiungere il suo scopo, il suo obiettivo. Quello degli stilemi dei personaggi archetipici, in qualche modo, è il problema dei generi. Insomma, quando fai il giallo, ovviamente ci sono una serie di generi che sono più che nel film, proprio nella testa delle persone, che si aspetta quella cosa lì. E per quello è complicato non solo farlo bene e dargli anche un senso nuovo, come dicevi tu. Per me è nuovo, perché è un personaggio che non ho mai fatto in vita mia, è così, insomma, così cupo, così pieno di ombre, senza riscatto quasi. È stata una cosa interessante. Credo che possa essere uno di quei personaggi che non solo mi cambiano la mia carriera, ma possono cambiare anche il mio modo di rapporto, per esempio, col pubblico, ecco. E ho notato una cosa, perché questo inverno, quest'estate a Verona ho fatto Shylock, no? E un mercante di Venezia con Binasco. Devo dire che lì, anche grazie a Valerio, ho cercato di fare un personaggio che cercava di stare lontano dal pubblico, no? In teatro questa cosa è molto forte, il pubblico, la presenza del pubblico lì, quindi ho cercato di tenerlo lontano per la prima volta in vita mia, e ho notato che più fai così e più il pubblico viene verso di te. L'ho capito forse un po' tardi, però l'ho capito. Thank you. La ragazzina è stata prelevata da un'ambulanza nella notte. Era alla festa dove dice di essere stata anche la... Ulrich. 16 anni. Coca e alcol. Facevamo molti regali suo marito. Che regali? Scusi, sa, le ragazzine che frequentava. Ha nascosto lei i sacchetti. Non voleva che lo scoprissimo, che si venisse a sapere. Non lo so perché li ho nascosti. Anche il tuo personaggio è un personaggio che cerca di tenere lontani apparentemente i sentimenti, eppure va a indagare alcuni aspetti dei sentimenti umani e maschili. Il rapporto con l'amico allievo, il rapporto con la figlia, un rapporto molto difficile da gestire per un uomo con una figlia adolescente da gestire da sola. C'è anche una ricerca sulla mascolinità di questo personaggio. Sì, diciamo, un personaggio maschio nel senso di come si può essere maschi oggi, in questa autoreferenzialità che può portare solo poi a una chiusura, come dicevi tu, a un essere in una bolla quasi, che non ti consente di parlare veramente con gli altri, quindi alla fine... La parola che poi ricorre di più in questi anni è la depressione, forse colpisca più facilmente i maschi che le femmine, proprio per questo forse, perché non hanno fiducia nella parola, nella comunicazione, invece le donne chiacchierano di più proprio istintivamente, hanno questo rapporto con la parola che è un modo comunque in qualche modo, anche nella parola più futile, però a dire le cose, a verbalizzarle, questo forse è una grande... modo per tenere lontana questa cosa che abbiamo dentro. Era meglio se ti lasciamo andare. I buoni non vincono mai, papà. Ti ho fatto credere questo? Non è così? Tu sei buono, no? Non lo so. Io ho sempre cercato un modo di vivere bene anche in un posto così, dove succedono cose così brutte. Non l'ho trovato, mi sono anche stancato di cercarlo. Deve essere andata così. Sapevo che fu. Non devi lasciarmi fumare se non vuoi. Fa male, lo so. Ti fa male. Mi avete a vestire. C'è una città in Italia che è un po' lo stereotipo dell'assenza dei rapporti umani o della difficoltà nei rapporti umani, che è Milano. E Milano è uno dei protagonisti di questo film. Però tu con Milano hai un rapporto particolare, bello alla fine. Sì, sì, mi fa tenerezza, insomma, una cosa strana da applicare a Milano. Nel senso che quando sono arrivato io a Milano era metà anni 80, c'era un'euforia veramente difficile da capire, forse anche ingiustificata, insomma tutti insomma, erano su di giri in qualche modo. Poi dopo c'è stato questo grande depressione che è venuta nei primi anni 90 con Tangentopoli, la perdita di una centralità, però di base mi dà un senso di tenerezza, nel senso che è una città in cui spesso si arriva, si prende qualcosa e si va via senza ringraziare neanche. Invece è una città che da questo punto di vista, per esempio almeno nel mio caso, è stata di una grande generosità, insomma sono riuscito a realizzare le prime cose importanti che mi hanno aiutato poi nel corso di tutta la mia carriera, quindi in questo senso insomma, devo riconoscenza imperitura alla città. Stavano sparando delle bottiglie, la ragazza dice di essere sua figlia. Ma è una ragazzata, mi ha rubato la pistola. Ma guarda che eri tu che dovevi custodirla meglio. Senti, questi qua fanno schifo. Fanno così schifo che uno così, che sia morto, sono contento. Stai zitto. Fin dove siete arrivati? Le ragazzine? Sì, lì sì. Polizia! Stringimi forte per vivere. Volevo non avere paura. Tu ti devi fidare di me. È rimasto solo sua figlia. Cerchi di non peggiorare le cose. Come la vedi la stagione che sta per iniziare proprio per il cinema italiano? La scorsa stagione è stata una stagione in cui il cinema si è aggrappato e ha resistito a fatica. Adesso? Ma da un lato c'è un problema proprio mondiale del modo di fruire il cinema che è cambiato totalmente. La sala, ecco, la sala fa una gran fatica. Il nostro cinema è sopravvissuto in questi anni anche per una miriade di piccole sale che erano sparse sul territorio, monosale, di proprietari unici che insomma in qualche modo tenevano vivo il modo di circuitare dei film, insomma. Andando in crisi questo, certo bisogna reinventare qualcosa, perché naturalmente nei multiplex il nostro cinema fa una grande fatica, insomma, bisogna capire come affrontare questa nuova sfida. Però credo che poi l'Italia ci abbia sempre le risorse e la creatività italiana comunque in qualche modo sarà un luogo comune anche questo. Però emerge sempre alla fine. Ma io credo che, io ho preso parte dei progetti, questo non è l'unico film in uscita a cui ho preso parte, ce ne saranno altri due e presto diventeranno tre. Ho preso parte a film che avevano grosse difficoltà, grossissime. Ecco, penso di aver fatto forse le esperienze più stimolanti. In queste difficoltà abbiamo trovato il terreno adatto a costruire delle cose, se non altro in autonomia. E questo è molto importante. Riuscire a sbagliare da soli è bello, e non perché qualcuno te lo ordina. Caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di 140 caratteri. Ancora cinema e il Festival di Locarno nella seconda parte del nostro appuntamento di oggi. Palazzo Sopra Cenerina, Locarno. Con In debito, Andrea Segre va in Grecia alla ricerca delle radici del rebetico, tra musica e storia, un documentario per Vinicio Capossela. Mi sembrava doveroso cercare di capire cosa stava succedendo, intanto perché quello che stava succedendo in Grecia non è una cosa separata dagli altri paesi, ma è probabilmente il caso più avanzato di una strada che però non solo ci riguarda tutti, ma che abbiamo preso tutti. E quindi mi sembrava doveroso, in un momento appunto dove non si parla altro che di crisi, di capire bene da vicino il punto più focale, no? E poi perché riguardo alla specificità di questo paese ci arrivano notizie molto riduttive, no? Quando si parla di tranche di debito, salvataggio, questo, quest'altro, in realtà le cose sono molto più complesse di così e non. E poi anche per amore per questa musica, il rebetico, che insomma mi chiedevo che attualità avesse suonarlo in un momento, una musica che era nata da una difficoltà, da una cosa, che attualità avesse per le persone suonare, e soprattutto per vedere un po' più da vicino proprio le persone, no? Noi deleghiamo un po' la nostra informazione ai mass media, a internet, pensiamo, ci siamo già sistemati la coscienza mettendo un mi piace, ho capito, mi sono informato, ma in realtà non incontri mai le persone, no? Quindi un documentario che cos'è? Soprattutto un documentario di questo tipo è aprire una camera su delle persone che semplicemente lasciano andare il corso di pensieri che non riguardano più specificamente una singolare situazione come quella del proprio paese, ma l'uomo un po' messo a nudo in un luogo in cui l'uomo si mette a nudo, cioè la taverna. La taverna è un posto dove si suona la musica, si beve, si mangia, cioè la cosa più antica che c'è, il simposio, no? Dove circolavano le idee, ecco. E quindi, però idee non accademiche, idee in taverna, sto dicendo che tu hai mangiato e bevuto e hai ascoltato una musica che ti parla di te, perché queste canzoni che hanno anche 70-80 anni, anche solo leggendo la traduzione del testo ti parlano di te, ma anche se non lo sai, comunque è una musica che parla alla tua parte che ha ancora dei conti in sospeso con la vita, no? E quindi questa è stata un po' l'idea e la, credevo fosse una riflessione da fare su cosa stiamo diventando, su cosa, dove stiamo andando, cos'è, crisi cosa significa, una parola greca che dice separazione, cernere, scegliere, no? Scegliere di cosa essere fatti. E quindi, tra l'altro, insomma, la Grecia ha anche un, è un po' come parlare dell'uomo dall'inizio, no? Cioè, c'è una distanza mitica che mette a fuoco le cose in una maniera che ci fa vedere un po' l'uomo in sé, non soltanto la particolarità di una cosa. Come un crotalo per farmi ricordare della spide nel cuore che mi succhia, succhia la tua crudeltà. Ora non sento più dolore, non c'è niente, niente c'è più da succhiare. Gli anni buoni che ti ho dato, niente ormai me li può fare ritornare. C'è una frase molto bella che dice uno dei musicisti che avete incontrato, che dice: l'Europa ha paura del bemolle, ed è una metafora molto interessante, ci ho pensato molto perché è proprio vera. Il grande Christoph Illakis ha detto anche che la radice, il ramo su cui si riposa la farfalla, se non ce l'ha o morirà o volerà via. Dice anche un'altra cosa un gestore di una taverna, no? Dice: metti l'IVA al 23% significa chiudi. Ma questi sono posti che non interessano agli scopi dell'Europa, delle banche, di tutto quanto. Sono posti che servono alle persone per aggregarsi, quindi non c'è un... però per noi sono la nostra barricata per preservare la nostra umanità, la nostra dimensione umana, no? Allora, secondo me, un paese dove tu alle 2 di notte è un deserto e non hai un posto dove andare, come è per esempio l'Italia adesso, non so altre, è un paese in cui tu alle 3 di notte ti infili, di un giorno feriale, ti infili in una taverna, è aperta, c'è qualcuno che sta suonando, c'è qualcosa, cioè è un paese che ti dà anche la possibilità i luoghi sono una cosa che fanno parte, le canzoni, la cultura, sono cose che fanno parte proprio della cultura che abbiamo e della nostra possibilità di essere uomini. Quando tu ci hai tolto tutto questo, non ci hai tolto soltanto il bemolle, ci hai tolto proprio il luogo in cui essere. E rimane, quando in ogni periferia in cui si toglie un centro sociale, si toglie un luogo, si toglie una comunità, perché i luoghi sono le cose che creano la comunità. Queste musiche sono musiche che creano un'occasione di comunità, no? E questo è togliere pian piano tutte queste cose, significa lasciare l'uomo solo. E quando è la comunità, solo lo si può aggredire meglio, ecco. Pugnali e parole, i tuoi ricordi sono vecchi ormai, i sogni di notte che chiedono amore cadono al mattino senza te. Cammina da sola urlando ai lampioni, non resta che cantare ancora. Non te ne andare, scivola, scivola vai via, via da me. Il rebetico, così come mi è parso un po' dall'inizio, era una musica che rimandava un certo modo di vita, non soltanto una musica, no? Cioè il fatto di avere un modo di vita che peraltro conosco bene, perché mio nonno era sicuramente un mangas, anche se non suonava il rebetico, cioè chi erano? Persone che avevano un loro modo di vedere le cose, una dignità, un senso di fierezza, per cui preferivano, non so, perdere alle loro condizioni piuttosto che fare una cosa che andava bene alle condizioni di qualcun altro, ma questo non per amore di... semplicemente perché c'erano un certo rispetto di se stessi e quindi per esempio il codice di comportamento era la cosa più importante che avessero, no? Per cui se anche questo codice di comportamento li portava a vivere, non so, in una situazione più marginale o più, però era una cosa che avevano scelto loro ed era una cosa che non poteva essere tolta, no? Quindi non è che si tratta di fare le cose per non essere commerciali, è che spesso semplicemente è come la plastica, no? Quando tu vai in un posto dove ci sono i bicchieri di plastica, cioè magari è economico, no? Quando vai nei posti low cost, le così, però cioè, capisci che stai mangiando plastica, è lo stesso con la musica, no? I posti dove si pratica, no? Tu vai in una disco pub, lì così tutto quanto, va bene, ok, però è diverso andare in un posto dove, cioè, tu stai mangiando, stai bevendo una cosa e anche la musica non è una cosa che ti priva di te, ma che ti ricongiunge a te, cioè ti parla di te. Questa è la musica anche che cerco di fare io. Messer l'umo e glicchia sui matia. Floga mu echi anapsi me sti gardia. Ach, ya habibi, ach, ya leleli, τα δυο σου χείλη στάζουνε μέλιο είμαι. Questo film apre delle porte, apre una porta alla Grecia, apre una porta al cinema. E adesso che hai aperto queste porte? Spero che qualcuno le passi. Io faccio sempre la stessa cosa. Uso qualche... Credo che la cosa più importante sia essere mezzo di un po' di circolazione di idee, anche a volte di pensieri e anche di musiche, no? Adesso mi sto mettendo nel pulmino di Maio per andare a fare in giro la musica da sposalizio con la banda della Posta. La banda della Posta di Calitri fa musica proprio da ballo. Allora, la musica da ballo, per esempio, è una cosa umile che sembra che ce l'abbiamo sempre avuta, poi uno si rende conto che non ci sono più i posti dove si... che la gente non sa neanche più come si fa una mazurka o una polca, non voglio dire che lo dobbiamo saper fare per forza, però dar l'occasione proprio anche solo di... Poi quando i tempi sono difficili bisogna ripartire dalla prima comunione. Calitri quindi il ramoscello della farfalla. Vabbè, ognuno ha il suo, però non necessariamente i ramoscelli devono essere qualcosa... È bellissimo avere dei localismi, delle cose territorialmente che ti appartengono, però questa radice può essere una radice che non viene specificamente dal tuo paese, da un'identità tua. La forza del rebetico, che lo rende una musica unica, è proprio il fatto che sia una musica di sradicati, cioè che sia una musica urbana, che a differenza della musica folclorica non parli specificamente di quel luogo e di quella gente, ma in un certo senso parli a chiunque ha uno sradicamento. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. 140 caratteri torna ogni domenica alle 8:30 e 19:30.